Rieccoci sull'indigesto in una prima parte speciale di questa puntata dedicata a Yannis Varoufakis e DiEM25. L'ex ministro greco ha partecipato al Festival Internazionale a Ferrara lo scorso fine settembre e lì abbiamo raccolto i materiali che vi proponiamo oggi. Innanzitutto lasciatemi ringraziare Maya Musi per la traduzione e Stefano Cottignola per il doppiaggio. Ora però veniamo al sodo. Nel corso dell'intervista a più voci durante il Festival Internazionale a Varoufakis è stato chiesto ad esempio se è vero che qualche anno fa, quando la questione greca teneva col fiato sospeso l'Europa in sede di trattative con le istituzioni europee, Tsipras rappresentava il volto più dialogante, più morbido e disposto ad accettare i memorandum della Troica, mentre Varoufakis era già pronto per l'uscita della Grecia dall'euro, la cosiddetta Grexit. È vera questa versione di quanto accadde allora? Naturally not. The reason why this episode in 2015 is pertinent to all of us. Naturalmente no. Il motivo per cui questo episodio nel 2015 ci riguarda tutti, non solo i greci, ma gli italiani, i tedeschi, i francesi, persino i britannici, è che racchiude quella che, se vuoi, è l'essenza del problema con l'Unione Europea e più nello specifico con l'Eurozona. Ricordate Henry Ford? Quando introdusse la sua prima auto di produzione di massa, la Model T, era solito dire: potete averla in qualsiasi colore vogliate, basta che sia il nero. Questa è l'Eurozona, potete avere l'euro e le politiche che volete. Basta che siano quelle dettate da una fonte di decisioni politiche estremamente specifica. Ed è successo così. Perché io e Tsipras siamo stati eletti? Non siamo stati eletti perché improvvisamente i greci sono diventati dei radicali di sinistra. Noi eravamo un partito del 4% che è cresciuto al 40%, e questo è successo in risposta ad una situazione storica ben precisa. E qual era questa situazione? Lo Stato di Grecia è andato in bancarotta in Europa nel 2010 e quell'unità di decisione politica a cui mi riferivo prima ha deciso di coprire quella bancarotta. E come si copre una bancarotta? Concedendo grandi prestiti a chi è andato in bancarotta, facendo finta che non sia fallito, e poi ovviamente bisogna concedere altri prestiti ancora. E la cosa peggiore è che hanno fatto questo imponendo condizioni di austerity che hanno ridotto le entrate, che erano già insufficienti a ripagare i vecchi prestiti. Figuriamoci i nuovi. Quindi è stata pura follia in azione. Se guardate all'economia greca vedrete che c'è una forte depressione in Grecia come conseguenza di queste misure. Noi siamo stati eletti perché abbiamo promesso una cosa. Innanzitutto non eravamo dei Grexiters, non volevamo uscire dall'Eurozona, spiegheremo più avanti i motivi se volete, ma allo stesso tempo non eravamo preparati ad accettare ulteriori prestiti, sapendo che non saremmo stati in grado di ripagarli a delle condizioni che avrebbero intensificato la crisi e pertanto minato le nostre possibilità di pagare i vecchi prestiti. Ora, ogni cittadino sovrano dovrebbe avere il diritto di rifiutare nuovi prestiti dalla banca se pensa che, essendo in bancarotta, non potrà ripagarli. Ogni municipalità sovrana, prendi Ferrara per esempio, il sindaco di Ferrara dovrebbe avere la possibilità di dire: guardate, non prenderemo in prestito altri soldi perché la nostra municipalità non sarà in grado di produrre le tasse locali per ripagarli. Ogni stato dovrebbe avere il diritto di dire: non possiamo accettare ulteriori prestiti, specialmente se vengono elargiti insieme a cordoni di austerity. Questo non era concesso nell'Eurozona e la parte peggiore della faccenda fu questa. Quelli di noi che sono andati dall'Eurogruppo, quelli che sono andati a Bruxelles, a Francoforte, a Berlino, con proposte molto moderate su come risolvere la situazione, si sono trovati davanti a un muro di cemento. Ci è stato detto, come Henry Ford, possiamo discutere tutto quello che volete, basta che accettiate quello che vi diciamo noi, prima di avere qualunque discussione. Il vero dilemma che ci siamo trovati ad affrontare io e Tsipras a quel punto è stato questo: accetti nuovi prestiti solo perché ti hanno istruito a farlo, pur sapendo che una Grexit, ovvero uscire dall'Eurozona, per quanto onerosa possa essere, sarebbe meno dannosa di una desertificazione permanente per i prossimi 30 anni, con tutte le nuove generazioni che lasciano il paese a causa di questa intensificazione della crisi? La nostra visione, mia e di Tsipras, fin dall'inizio fu questa: una Grexit sarebbe terribile, non la vogliamo, non la proponiamo, non la minacciamo, ma se ci punti una pistola alla testa e ci costringe a scegliere tra la desertificazione ed evitare di uscire dall'euro attraverso questi prestiti, quello che stiamo cercando di dire è che non firmeremo. Dove sono andate male le cose? Il mio collega Alexis Tsipras lungo il cammino ha deciso di capitolare. Devi chiamare lui qui per chiedere il motivo, perché ti giuro sulla mia vita che non l'ho ancora capito. Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Varoufakis se l'atteggiamento delle socialdemocrazie europee, un approccio non radicale e impegnato a tentato di risolvere la crisi attraverso una mediazione fra società e capitale, non sia in realtà quello più giusto, migliore dell'intransigenza dimostrata almeno all'inizio da lui e dal suo partito. Sentiamo cosa ha risposto Varoufakis. Se c'è una cosa che appartiene al passato, quella è il centro-sinistra. Guardalo, guarda il centro-sinistra in Francia, distrutto. E in questo paese non c'è centro-sinistra. Il Partito Socialdemocratico in Germania è completamente svanito dalla scena dei partiti rilevanti. I socialisti in Grecia, spariti. I socialisti in Spagna sono in subbuglio. Ma perché? Per quello di cui parli tu. E ancora di più a causa della crisi. Non vi farò una lunga lezione sulle ragioni della crisi, non preoccupatevi, ma dirò un paio di cose. Primo, abbiamo creato l'Eurozona, immagine del regime aureo degli anni 20. Questa è l'essenza dell'euro. L'euro fu creato come un regime di cambio a tasso fisso senza alcun sistema o meccanismo per ristrutturare deficit e surplus, senza un'unità politica di alcun tipo, senza una banca centrale che potesse effettivamente operare come una banca centrale. Ora, per fare questo l'ideologia neoliberale è stata un'importante copertura, proprio come il marxismo è stato per l'Unione Sovietica una copertura, ma non realmente legato a quello che il Politburo faceva. E poi, come nel periodo tra le due guerre, quando il regime monetario a cambio aureo collassò sotto l'arroganza della sua stessa struttura, il 1929 fu ripetuto in Europa nel 2009-2010, i politici che erano al potere, specialmente i socialdemocratici e il centrosinistra, prendete Schröder per esempio o il Partito Socialista in Francia o in un contesto differente Tony Blair in Gran Bretagna, a causa della crescita della finanzializzazione del settore bancario, dovuta ai flussi di capitale che erano stati potentemente rafforzati dal nuovo regime monetario, decisero di darsi alla latitanza rispetto a quello che i socialdemocratici e il centrosinistra avevano sempre fatto. Di che cosa si occupava il centrosinistra? Qual era l'essenza della socialdemocrazia? Era quello di mediare tra il capitale e la forza lavoro, tra i salari e i profitti, prendere parte del profitto industriale e usarlo per finanziare il welfare state. Tuttavia, intorno alla metà o i tardi anni Ottanta, il centrosinistra aveva smesso di fare anche questo. Il settore industriale si stava contraendo, il settore finanziario stava crescendo, i socialisti, il centrosinistra, facevano un patto faustiano con i banchieri. Chiuderemo un occhio su quello che fate. Vi deregolamenteremo, lasciandovi fare tutto quello che volete, e in cambio una parte dei vostri profitti finanzierà il welfare state. Ma quando la bolla finanziaria è scoppiata in Europa, nel mezzo di un sistema a cambio fisso come quello degli anni 20, è avvenuta in pratica un'altra crisi come quella del 1929. Quei socialdemocratici che si trovavano al potere avevano perso sia la capacità analitica di comprendere quello che stava accadendo, sia la spina dorsale, il carattere morale per fare qualcosa in merito, per dire ai banchieri: adesso salveremo le banche, ma non voi. Nel momento in cui hanno fatto questo, hanno smesso di essere rilevanti e sono scivolati nell'insignificanza. Chiedi del 2015. È piuttosto affascinante osservare le politiche che io stavo proponendo a Wolfgang Schäuble e al Fondo Monetario Internazionale. Avevano il supporto di attori fortemente neoliberali, come Henry Summers, ex segretario della Tesoreria degli Stati Uniti, come Norman Lamont, ex ministro del Tesoro in Gran Bretagna, come Jeff Sachs. Queste erano le persone che mi aiutavano a delineare le nostre politiche economiche. Erano alquanto neoliberali. Quindi io andavo lì a argomentare a favore di una riduzione del prelievo fiscale sulle società. Ero un uomo di sinistra che andava a chiedere una riduzione delle imposte alle aziende, che è una politica estremamente neoliberale, ma lo facevo perché se hai un'economia in crisi hai bisogno di ridurre le imposte alle imprese per favorire un livello minimo di ripresa. C'era bisogno di un uomo di sinistra per fare questo. Il Fondo Monetario Internazionale, Schäuble e Mario Draghi, presumibilmente la leadership neoliberale del mondo, mi dicevano di no, che dovevamo aumentarli. Quello che sto dicendo è che il neoliberismo è soltanto una copertura per il modo in cui abbiamo costruito l'euro. All'indomani della crisi, da una parte il centro-sinistra è scomparso senza lasciare traccia e continuerà ad essere così fino a quando non sarà in grado di rinnovare la sua critica del capitalismo europeo. Ma dall'altra parte anche il neoliberismo si è ritirato. All'indomani della crisi, da una parte il centro-sinistra è scomparso senza lasciare traccia e continuerà a essere così fino a quando non sarà in grado di rinnovare la sua critica del capitalismo europeo. Ma dall'altra parte anche il neoliberismo si è ritirato. Il neoliberismo è semplicemente il frutto dell'immaginazione della gente ormai. Quando ti trovi davanti alla troica che impone alla Grecia un aumento delle imposte alle società, ti rendi conto che ciò a cui questo porterà all'indomani del collasso della finanziarizzazione e degli scossoni all'architettura dell'euro è una brutale diplomazia delle cannoniere. È semplicemente crudeltà contro chiunque osi resistere. E questo è qualcosa che anche Theresa May sta vivendo a Londra, perché sebbene lei provenga da un background politico completamente diverso e neoliberale, Mr. Barnier e il team di negoziazione di Bruxelles la stanno facendo a pezzi semplicemente perché l'Unione Europea in questo momento è in assetto difensivo, si rende conto che il terreno su cui poggiava sta cedendo e reagisce con i classici mezzi autoritari di un regime in crisi. Torniamo insieme in questo piccolo speciale dedicato al pensiero di Yanis Varoufakis e di DiEM25. Come abbiamo detto all'inizio, questo movimento si propone di rappresentare un'alternativa al binarismo che vede contrapposti, ma forse in modo funzionale, oligarchia finanziaria europea da un lato e populismo nazionalista dall'altro. Un terzo spazio, perché forse dire terza via avrebbe ricordato Tony Blair, è possibile per uscire indenni dal pantano europeo. Almeno questo secondo Varoufakis e DiEM25. Allora sentiamo ancora le sue parole per capire meglio. Comment on three points that you raised. One is what is the establishment? The second one is the... I punti che solleviamo sono tre. Primo, l'establishment. Secondo, l'ascesa del populismo. E terzo, il divario tra nord e sud, le divisioni interne all'Unione Europea, che sono state accentuate dalla crisi dell'euro. Innanzitutto l'establishment. Io non sono un teorico della cospirazione, non credo che ci sia una piccola stanza fumosa piena di vecchi uomini che prendono decisioni, ma allo stesso tempo non dobbiamo essere naif. Ricordate cos'è successo con la crisi finanziaria? Abbiamo salvato le banche. La signora Merkel, contro la sua volontà, è stata costretta a dare 500 miliardi alle banche tedesche in un solo giorno. Ebbene, non convinci la Merkel a dare 500 miliardi in un giorno, a meno che tu non abbia un qualche club, che tu non faccia parte di qualcosa che potremmo chiamare l'establishment. E una volta che hanno dato questi soldi, si troveranno a dover dare altri soldi per il salvataggio della Grecia, di nuovo alle banche, perché questo è quello che è successo. E poi si troveranno a dover improvvisare come vendere questa faccenda ai loro parlamenti. E così, invece di presentare il secondo salvataggio della Deutsche Bank, di BNP Paribas e di Société Générale, come quello che è stato, un altro salvataggio dei banchieri, hanno detto che era solidarietà con i greci, visto che i soldi sono andati allo Stato greco e poi lo Stato greco li ha dati a Società Generale, BNP Paribas, la Deutsche Bank e le banche finanziarie. Ma per portare i membri del Parlamento a votare per queste linee di salvataggio hanno dovuto dire: ah, però saremo duri con loro perché sono stati pigri, sono le cicale del sud e noi le formiche del nord. Così va la narrativa dello stereotipizzare, che è la prima fase del razzismo ai suoi inizi. E questo spiega il punto che sottolineavi tu a proposito dell'accentuarsi del divario tra nord e sud e il fatto che in risposta al processo di deflazione forzato sui greci, italiani e spagnoli, la deflazione si è riversata sulla Germania stessa portando come risultato tassi di interesse negativi. Schauble ha correttamente detto che i tassi di interesse negativi sono responsabili dell'ascesa della AfD in Germania e ha ragione, perché non c'è nulla che possa creare maggiore entusiasmo per la xenofobia e per vedute di estrema destra che avere gente della classe media, gente piccolo borghese che vede i propri risparmi ridursi a causa di tassi di interesse negativi. Specialmente quando il loro ministro delle finanze dice che è colpa dei greci e degli italiani che con le loro politiche di spesa spendaccione hanno portato a questa situazione. How do we deal with this? Well, let me tell you that the only way to deal with it is politically. And this is what DiEM25 is doing. More concretely. L'ultimo punto è come gestiamo questa situazione. L'unico modo di gestirla è politico e questo è quello che fa DiEM25. Quando abbiamo deciso di fondare DiEM25 abbiamo scelto Berlino come luogo per la sua sede e non per caso. Volevamo dimostrare che questo divario tra nord e sud è nocivo sia per il sud che per il nord. Che l'idea che tutte le formiche d'Europa, tutti gli alacri lavoratori vivono al nord e tutti i pigri mafiosi vivono al sud è nociva non soltanto per il sud ma anche per il nord, finché non capiremo in che modo i deficit del sud sono fondati sui surplus del nord e in che modo le banche del nord hanno fatto politiche di prestito rapaci nel sud prima della crisi, finché non capiremo che le vittime di ciò non sono soltanto i pensionati greci, ma anche i lavoratori part-time della Germania, la loro forza lavoro precaria, vedendo che più del 40% dei tedeschi vive oggi in condizioni molto peggiori di 15 anni fa, ma in un paese che è molto più ricco. Per questo abbiamo cominciato a Berlino. e ne siamo molto fieri. La maggior parte dei nostri membri è tedesca. Solo così si costruisce una solidarietà transnazionale, basata sull'analisi razionale e su soluzioni pratiche, che non separa gli interessi del Sud da quelli del Nord.